riflesse. Aie roce di mane sempre uguale a se stesse. Voto con qualcuno pure se non tu riesci. Ma roba doiesco che la faccia senza sorda chi facesse questi. Allora resta cammezza gente con me. Su ognuno è mia zavia, allergici a polis. Una birra di spagnello, un movimento e cocaina. Un chip, due pasticche, un pare motorino. Un due leader in destacca, macchina, telefonine. Chi è? Al Pacino Scarpes. Sulle Al Pacino moro come un cretino. Tutta fatta a cocaina. Imprevisti del destino, fatramente a caso vivi loro. Non c'è una bonna. Slave marocchina attorno, non c'è una bonna. A colpe sulla loro è tutta dove c'è sta torna. Niente ancora, non ne hai vista ancora. Niente, mo sono carrocere e se ne salio pavimenti. Lega tanta gente senza cui riferimento. A spendere niente, non vanno sapere più niente. Zero cambiamenti, tutti zero tolleranti. Ma zero tolleranza è un concetto, state attenti. Che non fa distinzione tra immigrati e residente. Perché se non ne hai vista ancora niente. Senti la questione come cresce, basta un niente. L'esplosione è imminente. Senti la questione come sale, sta per scoppiare. E non ne hai vista ancora niente. Ancora non hai visto niente. Ancora non hai capito. L'esplosione è imminente. Ancora non hai visto niente. Ancora non hai capito. L'esplosione è imminente. Niente.